Back jump. Street art and graffiti. Buongiorno a tutte e tutti, rieccoci una nuova puntata di Back Jump, la rubrica di approfondimento su street art e graffiti in onda ogni martedì alle 11.40 su Radio Città Fujiko. Oggi ci sono io, Flavia, a parlarvi di una mostra intitolata 30x30 organizzata dal collettivo artistico Vida Crei e dalla galleria d'arte Stesso Vatto di Imola. Quando? Questo venerdì 14 giugno negli spazi di Vida Crei a Ferrara. Ma ne parliamo con Alessio Bolognesi, artista e una delle menti del collettivo. Ciao Alessio. Ciao Flavia. Allora, il 14 giugno sarete alle prese con un evento speciale 30x30 che non è un semplice vernissage, però una vera e propria festa di compleanno per festeggiare il primo anno di vita del vostro studio. Ci parli brevemente di Vida Crei? Chi siete? Da dove nasce l'idea di creare questo collettivo? E com'è andata anche quest'anno, insomma? Certo, allora, Vida Crei nasce in maniera abbastanza casuale, nel senso che dall'unione di diversi individui della street art, dei graffiti, dell'arte urbana in generale, di Ferrara, si sono uniti cercando di, come dire, condividere degli spazi creativi e soprattutto condividere delle idee progettuali anche proprio per applicarle sul tessuto urbano della città di Ferrara. Quindi è stato un progetto così un po' in itinere, nel senso che a partire da 2, poi 3, poi 4, poi 5 persone siamo arrivati a un collettivo ormai di 8 membri, ognuno specializzato o comunque con delle caratteristiche proprie, ognuno chiaramente vive come artista a sé, e collaboriamo poi insieme nel collettivo per appunto gestire dei progetti sulla città di Ferrara, per gestire dei progetti all'interno del nostro spazio, quindi del nostro studio, e niente, insomma, cerchiamo di creare occasioni per anche portare, come dire, progetti nuovi, artisti anche da fuori a Ferrara, a dipingere sia in città e poi appunto, come in questa occasione, anche ad esporre nel nostro spazio. Il titolo della mostra, che è 30x30, fa riferimento al formato dei lavori esposti di oltre 100 artisti che porterete, tra cui adesso mi viene in mente Cascio, Cor 79, Petani, Nini, Moe, Ethnic, Void, insomma, e tantissimi altri. Ma parlaci un po', come vi è venuta questa idea? Nel senso, avete pensato prima al formato o prima al numero degli artisti e di conseguenza fare un formato per farci stare tutti? È nata perché ci vogliamo un po' male, probabilmente. L'idea era, a giugno dell'anno scorso abbiamo aperto per la prima volta al pubblico lo spazio di Vida Crei, che è questo studio in via Calcagnini 8 a Ferrara, e abbiamo pensato che a distanza di un anno sarebbe stato bello festeggiarlo un po' con tutti i nostri amici, tutte le persone che conosciamo, con cui ci troviamo a dipingere e così via. E quindi siamo messi a tavolino. Facciamo una mostra, no? Facciamo una mostra. Solo che è stato un po', penso che la cosa bella sia stata la casualità, cioè nel senso che abbiamo pensato dall'inizio di definire un formato standard, un formato piccolino 30-30 che fosse sia facile per chi veniva alla mostra anche da volendo acquistare e portare a casa, sia da un punto di vista di chiaramente organizzazione espositiva, perché comunque avevamo l'idea, insomma, di non limitarci a una selezione di artisti 10-20, ma di spaziare un po' tra ragazzi giovani, ragazzi della città, ragazzi da fuori, artisti più affermati, cioè proprio come se fosse una festa più ancora che un evento espositivo. Quindi alla fine ci siamo seduti a tavolino, ognuno metteva nomi di amici o persone o artisti che stima, insomma, che avrebbe voluto invitare, e ci siamo trovati a chiedere, insomma, ai vari artisti, e praticamente tutti ci hanno detto di sì. E quindi a forza di contare siamo arrivati a 110, 115 e poi continuavano a crescere, e quindi puoi immaginare la difficoltà organizzativa. Dopo ci siamo rivolti a Marco di Days of Art, con il quale alcuni di noi della Vida Crei collaborano già, per quanto riguarda la parte di gestione, tra virgolette, un pochino più formale, ecco, degli aspetti sia curatoriali e degli aspetti anche proprio legati al commerciale, insomma. Certo, e quindi abbiamo fatto un po' di sinergia e quindi, così, questo è così è nato, insomma. Quindi questo, allora aspetta, in ordine, il 30x30 oltre ad essere il formato, vi avete indicato un formato, ma il supporto è libero? Ognuno... Il supporto è libero, il tema è libero, quindi ognuno doveva avere la libertà di esprimersi come meglio riteneva, nel modo, con la tecnica che riteneva più congeniale. Abbiamo solo dato il formato come vincolo. Come linea, esatto, comune. Sì, e da lì infatti è nato poi anche il titolo della mostra, perché non aveva senso dare titoli altisonanti eccetera, quanto in realtà il filo conduttore del tutto era proprio la dimensione dei pezzi. Semplice e incisivo. Ricordiamo che è di un solo giorno poi. Come mai l'avete deciso di farla soltanto per un giorno? Cioè, legandola totalmente al compleanno, diciamo, di Vita Crei? Perché abbiamo voluto fare un evento un po' particolare, cioè chiaramente il nostro è uno spazio creativo, non è una galleria, non è uno spazio espositivo, e quindi garantire la permanenza dei lavori in mostra diventava complicato, perché noi abbiamo poi necessità di andare nello studio a lavorare. Certo. E quindi anche per questo motivo non abbiamo voluto impegnare gli artisti in opere di un metro o comunque di dimensioni più grandi, perché sarebbe stato tra virgolette sprecato. Però abbiamo pensato a questa formula, appunto, insieme a Marco di Genso Art, di dire facciamo un evento, praticamente una sorta di, chiamiamola estemporanea se vuoi, comunque un evento one shot di una sera con tutti gli amici, e poi con la possibilità per chi viene di vedere e portarsi via i lavori, diciamo così, in tempo reale, e poi organizzare una galleria online che sarà ospitata appunto sul sito di Tales of Art, attraverso la quale saranno disponibili, visibili e disponibili tutti i lavori in mostra per un periodo di circa 3 mesi. Quindi di fatto diventerà una mostra online, una mostra virtuale. Assolutamente, esatto. E sarà possibile poi acquistare eventualmente i pezzi contattando voi o direttamente la galleria, direttamente la galleria. Allora niente, non ci resta che ricordare data e luogo, vuoi dirti tu? Certo, questo venerdì 14 giugno, a partire dalle 17:30 circa fino alle 23, nel nostro studio Vida Crei di via Calcagnini 8 a Ferrara. Ci siamo noi, ci sono tutti, insomma gran parte degli amici che abbiamo invitato, che vengono da fuori anche solo per festeggiare insieme a noi, e poi con tutte le persone che vorranno venire a vedere la mostra. Esatto, ricordiamo che sull'evento Facebook potrete leggere tutti gli artisti che saranno presenti, e che potete riascoltare anche questa diretta sul nostro sito www.radiocittafusico.it,